Ma dunque, l'idea è nata ovviamente perché dopo aver studiato, tra virgolette, un pochino tutta l'avventura di Marconi come inventore, imprenditore, grande comunicatore anche, a un certo punto mi è balenata l'idea che, visto che il suo rapporto con la musica era un rapporto non così esposto, cioè si sapeva qualcosa ma non si sapeva, mi sembrava giusto provare a sfrocugliare in tutto quell'ambito che riguarda la vita musicale, che poi lui è stato in grado anche di generare, perché con la nascita della radio veramente ovviamente ha cambiato anche il mondo della comunicazione della musica in qualche maniera. Cioè, la radio e l'invenzione di Edison, che erano le macchine parlanti, hanno fatto nascere l'industria dell'intrattenimento, praticamente. Quindi, sì, esattamente. Ci sono degli aspetti che ti fanno pensare, no? Che dici, ok, ci sono delle attinenze con quello che può essere un concerto, tra l'altro preciso che è al Teatro Manzoni giovedì 12 dicembre alle 20:30, con la possibilità di ingresso libero. Però poi vai nel dettaglio e dici, Guglielmo Marconi e la musica. E a questo punto chiedo a te, visto che ne sei curatore, qualcosa di più, gli ospiti, quali sono le esecuzioni ispirate da questa idea anche, quali saranno le musiche che verranno proposte? Sì, allora il filo conduttore ovviamente in qualche modo è la radio o quegli eventi che hanno girato attorno alla radio. Però diciamo che il filo conduttore, essendo il filo conduttore della radio, sono andato ad analizzare e a guardare quali erano le composizioni musicali che venivano trasmesse nel primo periodo della BBC, nel primo periodo dell'URI Poieyar e nel primo periodo della Radio Vaticana. Perché sono state emittenti radiofoniche che hanno dato molto spazio ai concerti dal vivo delle orchestre fondamentalmente, no? E in particolare, per esempio, Torino Respighi ha diretto per Leijer parecchi concerti con le sue musiche, lo stesso ha fatto Rothe, hanno fatto altri musicisti, quindi c'è un legame molto stretto. La BBC è una cosa leggermente diversa, però anche alla BBC i programmi musicali erano comunque particolarmente sofisticati e si incentravano su, ovviamente magari con degli ensemble piccoli, però si basavano anche loro molto sulla musica classica, però anche in quel caso, per esempio, una delle cose più divertenti che ho scoperto è che quando nasce la BBC nasce anche lo studio degli effetti sonori per la radio, per cui nascono degli studi dove si lavora per accompagnare con effetti sonori o un radiodramma o insomma o le informazioni che vengono date in generale. Quindi insomma ci sono tutta un'altra serie di piccoli aspetti abbastanza interessanti e divertenti. Detto questo, Marconi e gente tipo Caruso, tipo D'Annunzio, tipo Pirandello, tipo Puccini, per cui la musica la frequentava abbastanza. Una delle cose più interessanti è che lui sul suo yacht Elettra mise un pianoforte a coda e durante le traversate o i viaggi che faceva con l'Elettra si dilettava a suonare, da dilettanza ovviamente, niente di che. Però insomma, quindi questo rapporto con la musica è sempre stato molto, molto stretto, molto intenso. Quindi essendo nata una sorta di industria dell'intrattenimento nei primi anni 20, tra i primi del Novecento e i primi anni 20, ovviamente la musica, da tutto quello che è successo, ne ha tratto grandissimo giovamento, gli artisti, le strutture e tutto quello che ci girava attorno. Quindi in più la radio è stata anche protagonista, la radio in quanto tale è stata protagonista anche in qualche modo di altre tipologie di eventi, tipo i futuristi fecero un manifesto che si intitolava La Radia, dovevano chiamarlo La Radio, e quindi anche questo aspetto, John Cage ha usato le radio per fare delle composizioni sonore, delle sue composizioni, quindi alcune di queste piccole cose, di queste tracce ci saranno durante il concerto. Ovviamente ci sono le canzoni, diciamo, più pop rock che hanno avuto a tema la radio, cito tra tutti, Radio Gaga oppure Video Kill the Radio Stars dei Buggles, ma anche Il Perfetto di Eugenio Finardi, la radio, L'Uccellino della radio, sì. Il Silenzioso Slow, insomma ci sono alcune composizioni più pop, diciamo così, che sono comunque interessanti. Poi noi ovviamente nel concerto le abbiamo arrangiate per piccola orchestra, per un'orchestra diciamo così elettrica moderna. Ci sarà anche il contributo di due Teremin, perché per esempio il quartetto di Haydn, che è stato il primo pezzo trasmesso da Luri, lo faremo arrangiato per orchestra e Teremin, perché anche il Teremin è comunque uno strumento che lavora sull'induzione elettromagnetica, quindi non su un collegamento diretto tra la mano che suona e lo strumento, ma un collegamento in qualche maniera virtuale. Quindi ci sono tutti questi riferimenti che ci sembrano interessanti. E poi ci sarà un brano di Eisler intitolato Un Perkleider Radio Apparat, dedicato alla radio. E, insomma, tutto gira lì attorno, però in maniera più, diciamo moderna, con degli arrangiamenti comunque ben fatti e interessanti, che dovrebbero insomma rendere la serata molto piacevole. Questa è la cosa un po' più singolare, più particolare che avremo durante il concerto. Loro non sono presenti a suonare dal vivo, perché farli arrivare dagli Stati Uniti era complicato, però hanno realizzato per noi un video che faremo vedere durante la serata, e hanno fatto appositamente un arrangiamento di una canzone di Neil Young, Ohio, che ai tempi della sua registrazione e poi distribuzione tramite i supporti di allora, che erano i dischi, Ohio racconta della morte di 4 studenti durante delle manifestazioni contro Richard Nixon, ovviamente. Quando il brano fu distribuito, diffuso e uscì, una buona parte delle radio americane lo censurò, lo bannò, perché in teoria andava un pochino contro al potere, quindi era una cosa che non andava fatta. Però insomma, a me piace l'idea che ci fosse anche questa cosa interessante e divertente, come per esempio nel concerto non ne faremo riferimento, ma il primo grande fake della storia è stato quello fatto da Orson Welles, quando sì, simulò l'arrivo dei marziani tramite la radio, una buona parte degli Stati Uniti ci credettero, insomma andarono un po' in panico. Decisamente, ecco, decisamente. Sì, infatti ce ne sono diversi, poi grazie a questa idea a riportare anche la musica narrata e scritta nel contesto di un'esposizione più vicino a un aspetto tecnico e di diffusione, però non solo, c'è anche qualcosa che riguarda l'impegno, l'ascolto, l'avanguardia, certo, il percorso musicale, la conoscenza di quello che può essere anche un diverso motivo legato alla musica, che dire, certamente un'iniziativa interessante nel contorno della mostra per Guglielmo Marconi nella ricorrenza di cui abbiamo parlato. Sarà al Teatro Manzoni giovedì 12 dicembre alle 20:30 e con ingresso libero. Grazie a Oderso Robini. Grazie Oderso. Grazie a voi per la chiacchierata e spero di vedervi al concerto giovedì sera.